E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e i temi che ci hanno accompagnato questa settimana sono anche i temi di questa giornata economico-finanziaria. Perché lo dico? Perché da un lato abbiamo i timori, o meglio, le quasi certezze di un rialzo dei tassi di interesse a breve da parte della Banca Centrale Europea dopo le dichiarazioni che anche ieri vi abbiamo fatto ascoltare del numero uno Jean-Claude Trichet. Oggi si è mosso l'Euribor, ossia il tasso interbancario, quello che serve per calcolare la rata del mutuo, per essere molto, molto chiari, ed è arrivato ai massimi dal 2009. Nel frattempo l'euro si sta rafforzando, è arrivato sopra quota 1,40, anche qui non lo toccava dal 2009, un livello di 1,40 in alcuni casi, dall'8 novembre del 2010, non del 2009. Quota 1,40 e poi nuova raffica di rialzi per il prezzo della benzina verso un weekend da record. Pensate che nel mezzogiorno nel sud del paese la benzina verde ha sfiorato 1,60 euro al litro, e anche qui ricordo, lo rifaremo nella seconda ora perché dedicheremo l'approfondimento a questo, però ricordo che se uno va a vedere quanto costa il prezzo del petrolio in euro adesso e quanto costava quando la benzina toccò lo stesso livello, quindi vicino a 1,59 euro, ci si accorge che nel 2008 il petrolio valeva 149 dollari, tradotto in euro valeva 94 euro al barile, e la benzina costava come adesso. Oggi il petrolio vale circa 105-110 dollari, con il livello dell'euro adesso significano 73-74 dollari al barile. Eppure la benzina costa come allora, cioè ci sono 20 euro di differenza tra il costo del petrolio di adesso e il costo del petrolio di allora, ma il prezzo della benzina alla pompa è identico. I misteri non della fede ma del mondo dell'energia. Parleremo anche di borsa. La borsa in questo momento è debole ma nulla di grave. A Milano meno 0,14%, c'è la vicenda Fondiaria Assai invece che tiene banco, sospesa, e adesso ve la racconterò, poi ne parleremo nei mercati. Sospeso dalle contrattazioni il titolo, meno 0,80 perde invece Francoforte, meno 0,60 il calo di New York, e Londra perde lo 0,20%, Parigi è la peggiore in questo momento, meno 1,20. Questa mattina le borse asiatiche hanno chiuso bene complessivamente, perché in Giappone Nikkei ha guadagnato l'1% e a Hong Kong l'Hang Seng l'1,24%. Ultima cifra prima di passare alle notizie in breve: 349-238-6666 per i vostri sms. Ci occuperemo anche del settore della calzatura, perché oggi presentazione del Salone Micam, il Salone della Calzatura. L'Italia è tra i principali esportatori e produttori al mondo di calzature. Petrolio intanto a New York ha aperto a 103 dollari al barile, in rialzo dell'1%, ma siamo, ripeto, non tornano i conti se uno va a vedere quanto paghiamo noi il petrolio in euro. Ancora la crisi americana, buona notizia invece dall'America, perché si sono creati 192.000 posti di lavoro negli Stati Uniti nel mese di febbraio. Il tasso di disoccupazione è sceso all'8,9%, ma soprattutto è il livello più basso nella disoccupazione americana dal 2009, e questo è assolutamente in controtendenza rispetto a quello che avviene in Europa, dove la disoccupazione resta alta. Ieri abbiamo commentato i dati, e alta e rigida, tranne che in Germania. Ancora per quello che riguarda gli impegni europei, oggi il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto che convocherà il prossimo 21 marzo un vertice dell'area euro, dopo aver parlato col cancelliere tedesco Angela Merkel. Si è vicini, ha detto la Merkel, si è sulla buona strada per nuove regole sul patto di stabilità interno all'Europa. E anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi oggi ha detto, durante un convegno a Parigi in quanto presidente del Financial Stability Board, ha detto: occorre completare la riforma della regolamentazione finanziaria, è imperativo resistere alla tendenza a far prevalere una logica puramente interna, cioè le regole devono essere europee e non dei singoli stati nazione. Ancora, aggiunto Mario Draghi, senza un'analisi delle cause che ci hanno portato a questa crisi, gli squilibri resteranno per molto molto tempo. Si diceva nel frattempo dei tassi di interesse. Dopo le dichiarazioni di ieri di Gianluca Triscella, Euribor a tre mesi è salito all'1,16%, siamo ai massimi dal giugno del 2009, e le associazioni dei consumatori iniziano a fare i primi calcoli su quanto costerà per i mutui. Il possibile rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea ad aprile avrà forti ricadute sulle famiglie che hanno un mutuo a tasso variabile, solo in Italia circa 2.300.000, se non ricordo male. E una stangata, dicono Adusbef e Federconsumatori, fino a 624 euro in un anno. Una buona notizia, non mando il gallo perché stiamo sempre parlando di morti, però di morti che calano, quindi all'interno di un dramma. Sono scesi i morti sul lavoro, le morti sul lavoro, 980 morti nel 2010, ai minimi da sempre, è il dato più basso dal dopoguerra. Ripeto, non si può festeggiare con 980 morti, ma si può far notare che è una buona notizia perché siamo ai minimi da sempre. Tra l'altro, questo sarà anche oggetto dei nostri approfondimenti nei GR. Se molti settori industriali di questo paese si sono ripresi, anche se non hanno recuperato tutto il calo del 2009, così non è avvenuto per il settore delle costruzioni. Anche nel 2010, infatti, il settore delle costruzioni e dell'edilizia ha segnato un meno 3,2% rispetto al 2009, dove già c'era stato un calo molto, molto forte. Anche la produzione industriale a dicembre è negativa rispetto al novembre, quindi continua a essere debole il settore delle costruzioni. Nel frattempo, ve lo dico come dato di cronaca, vi sarà una commissione d'inchiesta presso il Campidoglio per verificare come sono state vendute le case attraverso la cartolarizzazione, il patrimonio del Comune di Roma, polemica che va avanti da qualche giorno. Nel 2005 furono venduti 775 immobili per 121 milioni di euro. Due notizie in breve ancora. L'Alitalia ha raggiunto un accordo con i sindacati per far uscire, come esuberi, 700 lavoratori su base volontaria, andranno in cassa integrazione e mobilità. L'intesa è stata firmata nella sede di Confindustria. La cassa integrazione potrà avere una durata da un minimo di 12 mesi a un massimo di 48 mesi, dopodiché si potrà accedere alla mobilità per un massimo complessivo di 7 anni. Un pacchetto definito molto generoso, quello per l'Italia, dal ministro welfare Maurizio Sacconi. Di Premafin e di Fondiere Assai null'altro da aggiungere. Sospeso il titolo per tutta la seduta perché, cosa è successo sia Fondiere Assai sia Premafin sia Milano Assicurazioni, cioè tutta la galassia della famiglia Ligresti. Perché? Perché poi è arrivata la notizia che la Consob ritiene che dovrà essere lanciata un'offerta pubblica di acquisto su Premafin e su Fondiere Assai se il gruppo assicurativo francese Groupama, che ha già detto di voler entrare nel capitale, entrerà nel capitale con il 17%. Viene considerata una soglia, sappiamo che c'è il limite per la soglia dell'OPA, una soglia che obbliga Groupama a lanciare un'offerta pubblica di acquisto su tutti gli altri due gruppi, Premafin e Fondiere Assai. In sostanza un no della Consob a un ingresso senza obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto. E questa era la nostra ultima notizia in breve. Adesso andiamo con il primo tema di apertura e quindi mettiamo assieme una settimana in cui abbiamo visto l'inflazione rialzare preoccupamente la testa, l'America creare più posti di lavoro di quanto si attendesse, la Banca Centrale Europea far capire in maniera molto molto netta che ad aprile, salvo imprevisti, tornerà a rialzare i tassi, quindi ritiene conclusa la fase accomodante iniziata con il settembre-ottobre del 2008, quando esplose in tutta la sua virulenza la crisi economico-finanziaria. Eh sì, sono tanti temi che viaggiano delle volte in ordine sparso, ed è per questo che ho chiesto l'aiuto, come sempre facciamo nella prima parte del programma, di un economista che però ha anche una conoscenza molto approfondita del sistema produttivo, del modello produttivo italiano. Proprio per fare il disclaimer, è stato anche presidente del gruppo Sole 24 Ore, nonché direttore per molti anni, direttore generale della Confindustria. Mi riferisco a Innocenzo Cipolletta, che attualmente è presidente dell'Università di Trento e Senior Economic Advisor di UBS SIM Italia. Professore o presidente Cipolletta, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, cerchiamo di tenere assieme dati che forse assieme a prima vista non stanno. In America la disoccupazione scende, abbastanza sorpresa, a livello più basso da anni e soprattutto ha creato 192.000 posti di lavoro. Praticamente il tasso di disoccupazione è ai minimi dall'aprile del 2009. In Europa invece vediamo l'Euribor muoversi verso l'alto, ossia le banche prendere atto che la BCE aumenterà i tassi di interesse perché c'è troppa inflazione importata. Sono due mondi che non si parlano, Europa e Stati Uniti, in questo momento? Ma sono due mondi diversi, perché negli Stati Uniti d'America il mercato del lavoro è molto reattivo, sia in senso negativo, cioè quando c'è una recessione c'è un crollo dell'occupazione, l'abbiamo visto nel 2008-2009, è stato più forte che non in Europa. Poi quando inizia la ripresa il mercato del lavoro di nuovo crea lavoratori. L'Europa ha un sistema di welfare state che protegge in parte i lavoratori e quindi durante la recessione la riduzione dell'occupazione è meno forte. Però purtroppo durante la ripresa non c'è ricreazione di occupazione, spesso succede che l'Europa non riesce a tornare ai livelli di occupazione precedenti la crisi, quindi da questo punto di vista l'Europa rischia di perdere occupazione mentre gli Stati Uniti d'America distruggono e creano. Quanto ai tasso di interesse, io credo che sia anche una cosa positiva, nel senso non soltanto che c'è un rischio di inflazione, ma che stiamo uscendo dalla crisi, e quindi se stiamo uscendo dalla crisi si riforma anche un pericolo inflazione, la ripresa c'è, e questo io penso che sia un segnale positivo e che anche le borse e gli operatori dovrebbero cogliere. Ecco, dottor Cipolletta, o presidente Cipolletta, però mi faccia capire una cosa. Ieri, quando abbiamo commentato la conferenza stampa della Banca Centrale Europea con il collega del Sole Beda Romano, molti messaggi che arrivavano al 349-238-6666 dicevano in sostanza: ma come si permette? Come fa la Banca Centrale Europea alzare i tassi di interesse quando noi qui stiamo ancora arrancando, stiamo lentamente recuperando i livelli di produzione del 2008? È vero che la Germania è completamente fuori, ma l'Europa non è solo la Germania. E, Prego. No, io credo che questi ragionamenti sono ragionamenti di pancia, ma non di cervello, nel senso che con tassi di interesse ai livelli così bassi come ci abbiamo noi, il costo del denaro non agisce né positivamente né negativamente. Se domani i tassi di interesse saranno aumentati, non è che questo impedisce la ripresa, tutt'altro. Però attenzione che con tassi di interesse così bassi c'è una massa di liquidità in giro per il mondo che si riversa a cercare remunerazioni su fattori speculativi. Oggi in particolare sono materie prime e alimentari. Allora se noi non diamo al mercato monetario una remunerazione, diciamo, reale, noi rischiamo di avere ondate di speculazioni e bolle speculative che poi alla fine impediscono la crescita economica. Quindi penso che sia stato positivo questo messaggio. Ecco, l'unico mio sospetto, io sono abbastanza d'accordo con lei, cioè ritengo che in questo momento il denaro costa meno dell'inflazione, E quindi insomma abbiamo una dinamica assolutamente pericolosa, cioè è più conveniente prendere denaro in prestito che non prestarlo, e soprattutto si risparmia a prendere denaro in prestito che non ad averlo in casa. Però il mio timore è, Presidente Cipolletta, che da aprile in poi possa ripartire l'attacco ai debiti sovrani dei paesi più deboli dell'area euro. E cioè nel momento in cui la banca centrale alza i tassi, costa di più qualunque debito tu hai, costano di più anche i debiti di questi paesi, e inizia una spirale di attacco verso Portogallo, Spagna, sperando che l'Italia ne resti fuori. Sono troppo pessimista? Sì, sì. Ma sono rischi. Purtroppo noi siamo in mare ignotum, quindi non è che abbiamo la certezza di quello che avviene, e fa bene la banca centrale andare un po' a tastoni. Come avete visto, ha annunciato un aumento dei tassi di interesse, non era mai successo. Perché lo annuncia? Lo annuncia perché vuole vedere come reagisce il mercato. Se il mercato, per un'ipotesi qualsiasi, reagisce in maniera devastante, sono sicuro che il presidente della BCE dirà no, guardate, non c'è nessuna ragione di aumentarli. Si sta andando un po' per tentoni. Ora, con tassi di interesse un po' più elevati, il mercato finanziario può riprendere tono e si possono di nuovo avere investimenti in obbligazioni che danno dei rendimenti superiori all'inflazione, e questo può calmare la speculazione, perché oggi, non potendo guadagnare in termini reali con tassi di interesse così bassi, cosa si fa? Si punta sul Portogallo, dice quello è il prossimo che cade, e tutti a vendere i titoli del Portogallo. Domani c'è l'Irlanda e tutti a vendere i titoli dell'Irlanda. Tanto il denaro non costa niente, lo si prende a prestito e si fanno operazioni di speculazione. Invece, con un costo del denaro un po' più elevato, il mercato può tornare a essere un mercato normale, e a questo punto ci si renderà conto che questi debiti sovrani sì sono importanti, ma poi non sono la fine del mondo. Allora, aggiungo io, tra l'altro, visto che il denaro rende niente, la speculazione punta anche sulle commodities, quindi prezzi delle materie prime alimentari, cotone, cacao a record storico, commodities anche non alimentari, rame, zinco, argento, oro, abbiamo visto tutto salire ai massimi. E poi il petrolio, che però lì risente anche della dinamica del Nord Africa. Terza domanda che ho per lei, Cipolletta, è invece in realtà un'altra obiezione che arriva. L'inflazione in Europa, a parte il caso tedesco, la Germania va bene, quindi si spende di più, i prezzi aumentano, ma nel resto d'Europa è un'inflazione soprattutto importata, cioè i prezzi delle materie prime alimentari, i prezzi delle materie prime in generale, i prezzi del petrolio portano a far salire i prezzi del trasporto, dei beni, quant'altro, ma non è che noi stiamo spendendo di più, semplicemente ci costa di più, e quindi a che serve alzare i tassi? Ovviamente non serve per queste cose. Per queste cose però non è che i tassi di interesse devono star fermi, seguire soltanto alcune indicazioni. Le indicazioni che lei ha dato in termini di prezzi importati che aumentano e che drenano la capacità di spesa delle famiglie dovrebbero indurre il governo italiano a fare politiche di sostegno alle persone che hanno perso il reddito. Non a tutti, non prezzi bassi per tutti, perché sarebbe errato. Ma politiche di sostegno, trasferimenti, assegni sociali, soprattutto ai giovani precari che hanno perso il lavoro, e che è quello che hanno fatto altri paesi europei, soprattutto gli Stati Uniti d'America, perché oggi il rischio è proprio quello che l'aumento del prezzo importato riduca la capacità di spesa già bassa delle famiglie italiane, i consumi scendano ancora di più e il paese invece di riprendersi ristagna. Sì, piccolo dettaglio, Cipolletta, dove li trova i soldi, Tremonti? Ma guardi, i soldi si trovano perché l'Italia ha delle riserve in termini di tasse da mettere, che non ha messo. Parlo tasse? Della casa. Tasse? Tasse, la parola è brutta, ma è così. Noi abbiamo eliminato la tassa sulla casa, che è un'assurdità che solo l'Italia ha fatto. Questa tassa dovrà essere rimessa, e il governo lo sa che dovrà essere rimessa, i cittadini lo sanno che dovrà essere rimessa. Secondo noi, se si facesse una tassa sulla casa, come è in tutti i paesi normali, per finanziare gli enti locali, si risparmierebbe trasferimenti agli enti locali e si avrebbero i soldi per sostenere i consumi. Mi scusi, l'ICI di una volta, ma non è sulla seconda casa o anche sulla prima? Perché sa oggi che è solo sulla seconda, infatti. Sappiamo che le prime case sono... Però di fatto questo verrà superato dal federalismo fiscale di carattere comunale, perché viene data la possibilità. Mi lasci dire che non è così, perché il federalismo municipale comunque esclude la prima casa, E quindi è un federalismo assurdo. Non esiste in nessun paese del mondo che solo noi chiamiamo federalismo perché vogliamo politicamente battezzarlo così, ma non si chiama federalismo. Questo qui è trasferimento di risorse agli enti locali, escludendo la tassazione sulla casa perché è stata abolita. Quindi lei dice la tassazione sulla casa, non si rischia di ottenere un effetto boomerang, cioè tassare la casa, per molto, visto che l'80% degli italiani sono proprietari, non va a deprimere comunque i consumi per poi trovare le risorse, certo, per chi no, ha perso, guardi, il lavoro. Esattamente. Il problema è redistribuire il reddito tra coloro che ce l'hanno e non spendono in consumi perché risparmiano, perché hanno paura, e coloro che non spendono in consumi perché non hanno soldi. Allora, se siamo un paese corretto, dovremmo mettere una piccola tassa su chi risparmia troppo e trasferire risorse a chi invece non ha da terminare il mese. Allora, ancora una domanda per lei, perché questi sono elementi, diciamo, critici: un'Europa che non fa ripartire l'occupazione come sta facendo l'America, che si becca un'inflazione importata e comunque che ha un denaro che costa troppo poco e va fatto costare di più con i tassi di interesse. Però c'è qualche elemento positivo, e mi riferisco ai dati sull'export. Poi commenteremo quelli del settore calzaturiero. Ieri abbiamo visto quelli del settore dell'occhialeria, insomma 2 miliardi e mezzo di esportazioni, e con 800 milioni di importazioni nel mondo dell'occhiale, vuol dire che la bilancia commerciale grazie a quel settore è positiva per 1,5 miliardi. Le calzature sono riprese. Allora, noi vediamo consumi molto fermi, cipollette in Italia, però obiettivamente non saremo tornati ai livelli del 2007, ma il recupero fatto quanto esportazioni l'anno scorso è stato un recupero fortissimo. Allora vorrei capire lei come si spiega questo meccanismo. Ma guardi, l'Italia sta in una fase di ristrutturazione molto forte, che è iniziata da quando noi siamo entrati nell'euro e da quando i paesi nuovi emergenti hanno cominciato a essere dei competitori, quindi dalla globalizzazione. In questa fase noi stiamo perdendo attività in beni di basso valore e di basso prezzo, e stiamo recuperando competitività e stiamo trasformando la nostra industria verso prodotti di alto valore, prodotti su misura per i propri clienti. Questo processo dà una media zero in termini di crescita dell'occupazione e di crescita della produzione, però è una media zero che nasconde una grossa trasformazione interna, che noi vediamo proprio dai dati delle esportazioni. Noi siamo uno dei pochi paesi, insieme con la Germania, che non ha perso quote di mercato sul mercato mondiale, malgrado la competizione della Cina, dell'India e del Brasile, perché siamo riusciti a spostarci verso prodotti migliori. Quindi questo è un fatto positivo. È ovvio che, essendo l'industria soltanto il 30-32% del prodotto interno lordo, non basta a far crescere il paese, però non bisogna neanche dimenticare che questo è un fatto positivo, che noi ci stiamo riposizionando su prodotti più competitivi. Cioè, pur non aumentando l'occupazione, ma sta cambiando sotto sotto, senza che i giornali se ne occupino molto, e così, perché ci occupiamo sempre di cose anche più facete, sta aumentando, sta cambiando il modello produttivo del paese, si stanno spostando le varie imprese, i vari distretti su fasce più alte, questo si vede dalle esportazioni, e sono meno in concorrenza, se ho ben capito sul ragionamento, meno in concorrenza con i prodotti cinesi. È una rivoluzione silenziosa, come avvengono spesso le rivoluzioni in Italia. Esattamente. Ecco, esattamente. Le devo dire una cosa però, Cipolletta, lei si sta beccando del comunista, quantomeno, dagli ascoltatori, no, lei sa già dove voglio arrivare. Me. Vabbè, povero lei, questo. Però, voglio dire, perché lei vuole reintrodurre l'ICI? Allora, il ragionamento adesso, al di là di chi le dà del comunista e dice che questo è un ragionamento da ricchi, che voi potete permettere perché guadagnate tanto, ma obiettivamente l'ICI non era un'imposta poco proporzionale al reddito, non so come dire, no, in un paese... assolutamente. La prima cosa, perché tutti i paesi del mondo hanno un'imposta sulla casa? Ce lo dobbiamo chiedere, no? Il motivo è perché in tutti i paesi gli enti locali si finanziano sulla base dell'occupazione del suolo pubblico da parte dei cittadini che vi abitano, e quindi i metri quadrati. Dopodiché è ovvio che ogni comune, ogni regione può graduare la tassazione sulla base della non solo metratura, ma la può graduare sulla base del quartiere dove si abita, sulla base del numero delle persone che abitano in quella casa, sulla base del reddito di quelle persone. Quindi è una tassa molto modulare, per cui chi è povero può non pagarla, ma chi è ricco la deve pagare, perché chi abita dentro una città utilizza e costa alla città in termini di servizi, e bisogna pagare quei servizi, e far finta che uno non li vuole pagare significa semplicemente poi pagarli con altre tasse meno trasparenti, occulte, e mi sembra che la cosa non vale. Tutti i paesi del mondo hanno tasse sulla casa, dalla Stati Uniti d'America, l'Inghilterra che ce l'ha fortissima. Mi scusi, Francia, allora, no, a parte che le dico, le consiglio di non candidarsi in politica dopo questa richiesta. Sta arrivando di tutto, e diciamo all'80% non sono rose. Ma quello che stanno scrivendo gli ascoltatori al 349-238-6666 non è neanche pane, diciamo. Però ma non avrebbe più senso, e concludiamo, se veramente, e io sono anche d'accordo con lei, occorre liberare risorse per, da un lato, le imprese e dall'altro le famiglie che non arrivano a fine mese, detto con una banalità, non avrebbe più senso aumentare la tassazione sulle rente finanziarie, quelle con i caveat, cioè chi non tiene il botto, il CCT, per più di un anno, cioè non colpendo il risparmiatore, non colpendo la vecchietta che compra i botte, ma abbiamo una tassazione al 12,5%, in tutto il resto d'Europa è al 20%, almeno lì colpiamo un po' di speculazione vera, no? Su quella lì si può sempre fare, non sono contrario, bisogna purtroppo tenere presente che chi ha questi redditi di carattere finanziario ha maggiore possibilità di trasferire altrove questi redditi senza più pagare le tasse, mentre le case non scappano, i redditi da capitale scappano, e quindi in tutti i paesi del mondo, ripeto, si tassano più le case che i redditi da capitale, perché se l'Europa tutta insieme decidesse di tassare le rendite finanziarie, questo si può fare, perché a questo punto uno riduce lo spazio di movimento da parte dei capitali che, come sappiamo, fuggono appena possono. Allora, io la ringrazio Innocenzo Cipolletta, che non è nel Politburo di qualche paese, diciamo, dell'est, ma è presidente dell'Università di Trento e Senior Economic Advisor di UBS SIM Italia. Grazie anche a lei. Grazie, arrivederci. Devo dire che qualche messaggio a favore di quello che ha detto Cipolletta c'è, il rapporto mi sembra 80-20, e alcuni fanno notare che l'ICI era l'unica tassa che si pagava in base al reddito reale. In effetti, a meno che uno non guadagni tanto e viva in una topaia, di solito c'era una maggiore proporzione tra l'ICI di quanto non ci sia con l'IRPEF pagata da certe categorie. Non fatemi fare elenco ogni volta, dai, gioielleri 18.000 euro di media l'anno lordi, i ristoranti a 15.000, queste cose qui, no? Per cui un po' più di proporzione c'era. Capisco però benissimo anche molti di voi che, insomma, si sono imbizzarriti all'idea di un'altra tassa, del rientro dell'ICI e di quant'altro. Altri sono fermamente contrari, direi la maggior parte, e anche un po' insultanti. Non capisco perché alcuni diano del penoso a me. Si può parlare di tutto, ragazzi, anche del fatto se convenga introdurre l'ICI per reperire risorse, reintrodurre l'ICI, visto che il ministro Tremonti ha bisogno di tenere i conti in ordine e ne avrà sempre più bisogno, viste le nuove regole europee, e visto che l'Italia non è ripartita come la Germania. Inutile illudersi, più 1,1% non arriverà da lì tutto il recupero anche di IVA e IRES e IRPEF. Attenzione ancora, attenzione anche che l'Italia comunque mantiene il record europeo di evasione fiscale, oltre che di pubblica amministrazione non sempre efficiente. Su questo vediamo di metterci d'accordo, perché da qualche parte questi 200 miliardi di imponibili, che sono 100 miliardi di tasse in meno, in parte bisognerebbe anche, no, recuperarle. Vedo che molti di voi non sono d'accordo, e va benissimo, noi ospitiamo qualunque opinione sulle politiche economiche, visto che non mi sembra che circolino tutte queste idee nel governo e anche nell'opposizione su cosa fare per far ripartire il paese dopo aver tenuto in ordine i conti. C'è chi sostiene che bisognerebbe tassare la prostituzione per reperire risorse, vabbè, quello è un mercato, mi sembra abbastanza ampio in questo paese, la borsa. Allora, 1,397 euro per quello che riguarda il rapporto 1 di cambio euro su dollaro, 1,397 chiaramente per un euro, e l'America che ha chiuso, che sta andando debole, meno 0,40, ma hanno recuperato tutti i mercati nell'ultima ora. Francoforte meno 0,60 la chiusura, Parigi meno 1%, Londra meno 0,20, anche Milano ha recuperato, infatti chiude invariata. La vicenda oggi si chiama comunque Prema fine Fondiere Assai, ce ne occupiamo tra un minuto. Prima il commento di Borsa, come sempre con l'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Al di là di Fondiere Assai, che poi sospesa fa anche poca notizia, Prismian meno 3,91 e Fiat meno 3,11%. Sì, per quanto riguarda Prismian, la peggiore delle blue chip di Milano, meno 3,91%, come dicevi tu, all'indomani dei conti 2010. Ricordiamo due cose: il titolo veniva da un mini rally di 6 giornate consecutive con un guadagno complessivo superiore al 6%, ma poi ieri i conti in ribasso con un CDA che soprattutto ha proposto la distribuzione di un dividendo più che dimezzato, di qui il ribasso di borsa. Per quanto riguarda Fiat invece la serie era negativa, quinto calo consecutivo nella settimana, si veniva anche dai dati sulle immatricolazioni di febbraio, meno 20,49%, e mercato che forse comincia poi a dare atto di un, diciamo, di vendite da parte del lingotto che sono deludenti fino a questo punto. Eh sì, per quello che riguarda la Fiat, devo dire che avete ragione nel segnalare che anche Tod's oggi è negativa, meno 1,80, Di Assori meno 1,60, Finmeccanica meno 1,60%, Exor meno 1,40, Pirelli meno 1,30 come Tenaris, Banco Popolare meno 1,20 come Bulgari e Luxottica, Atlantia meno 1% come Enel e Autogrill. Di positivo invece troviamo un titolo bancario, e mi riferisco chiaramente in questo momento alla Popolare di Milano, più 1,4, l'Automatica più 1,2, Ubibank il secondo bancario positivo, l'1,20 di rialza, il terzo bancario si chiama Intesa San Paolo più 0,90, il quarto Monte dei Paschi più 0,80%, bene anche le generali, mezzo punto percentuale come Mediaset e Fiat Industrial, ossia Fiat ma la parte camion e trattori, Eni più 0,31%. Ancora molto bene oggi Geox dopo i conti diffusi ieri. Sì, ha chiuso il 2010 Geox con un utile netto di 58 milioni, è calato rispetto a un anno fa 66 milioni, ma c'è comunque un'ottima tenuta, la cedola resta di 18 centesimi contro i 20 dell'anno scorso, comunque il mercato ha apprezzato questi dati e poi diciamo anche gli operatori di borsa l'hanno fatto perché c'è stata praticamente una pioggia di acquisti oggi sul titolo fin dalla prima mattinata. Ancora, devo dare un paio di risposte, cioè, ho detto più 1,3% il PIL italiano perché l'1,3 è quanto abbiamo fatto nel 2010, la stima sul 2011 è dell'1,1%, così rispondo ad alcuni ascoltatori. Ancora, dite che anche la spesa della politica non è sotto controllo, abbiamo fatto una puntata su questo intera, 1.300.000 persone che vivono di politica in questo paese, 2 miliardi e 7 spese ogni anno. E avete ragione nel dire che anche sulle elezioni personalmente si potevano risparmiare 300 milioni accorpando le amministrative e facendo l'election day, però non eludiamo poi i problemi di come trovare i miliardi per far ripartire i consumi interni. Andiamo invece avanti con la borsa, tra i migliori e i peggiori oggi Sadi servizi industriali più 9,46, di Geox hai già detto, poi Esprinet più 3%, i peggiori Meridie meno 9,67, Crespi meno 6,47, Cell Therapeutics meno 5,95%. Novità su Edison, continuano a chiederci su Edison, per adesso per oggi diciamo non è stata una giornata di grandi novità, diciamo che settimana prossima arriveranno molto probabilmente le novità, è infatti prevista una sequela di consigli di amministrazione delle principali holding con cui i soci italiani controllano una parte di Edison e dovrebbe essere insomma alzato il velo sul riassetto di una società in cui EDF, stando alle indiscrezioni, dovrebbe assumere diciamo un controllo più effettivo. Grazie, buon fine settimana a te e a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Il traffico e poi Premafin, Fondiere Assai e Milano Assicurazioni sospese tutta i tre titoli, tutta la seduta perché in attesa della decisione della Consob, la Consob ha detto no, ossia ha detto che se i francesi di Groupama vogliono entrare col 17% nella Premafin, che è la finanziaria della famiglia Ligresti, devono lanciare un'offerta pubblica di acquisto sugli altri titoli. Breve riassunto, la famiglia Ligresti che controlla la Premafin finanziaria, che a sua volta ha il 41% del gruppo assicurativo Fondiere Assai, poi c'è anche Milano Assicurazioni, ha avuto problemi finanziari, insomma, a un certo momento si arriva a un accordo annunciato con i francesi di Groupama, che sono arrivati da poco in Italia e vogliono ampliare la loro presenza. E l'accordo è che Groupama entri col 17% attraverso anche un aumento di capitale, insomma, dentro la fondiera della Premafin, che a sua volta appunto controlla Fondiaria SAI. Lì iniziano i problemi, perché da più parti si dice: beh, attenzione, la Consum potrebbe chiedere a Groupama di lanciare un'OPA su tutto il gruppo, quindi sulla Premafin in primo luogo, ma anche sulla Fondiaria SAI. Lanciare un'offerta pubblica di acquisto vuol dire offrire a tutti gli azionisti di Premafin e di Fondiaria SAI la possibilità di vendere le loro azioni allo stesso prezzo a cui il Groupama le ha comprate dalla famiglia Ligresti. Oggi i titoli sospesi e la notizia appunto è arrivata. Riccardo Sabatini del Sole 24 Ore, buonasera. Salve. Allora Riccardo, l'opinione della Consob fu chiesta dai francesi stessi lo scorso 5 gennaio, no? E da quello che tu hai capito, qual è il ragionamento che ha fatto l'autorità di vigilanza da poco presieduta da Giuseppe Vegas? Ancora non si conosce per la verità, si possono fare solo delle supposizioni, è uno degli aspetti, diciamo, curiosi e nuovi di questa vicenda, nel senso che i titoli oggi sono stati sospesi questa mattina in attesa di una nota delle società che informava di quello che la Consob gli aveva comunicato. La nota è venuta, ma poi i titoli sono rimasti sospesi per tutta la seduta. Eh sì. Perché? Appunto, perché in attesa di conoscere le motivazioni della Consob nessuno si è sentito di rimettere quei titoli in borsa, in contrattazione. Allora, sono possibili due sostanzialmente interpretazioni. La Consob non è contenta del modo con cui Groupama ha formulato il suo quesito. Ad esempio, in questo quesito raggruppava sostanzialmente due possibilità. La prima, la fondamentale, quella legata all'operazione di rifinanziamento di Premafin, era il fatto che di avere il via libera a poter ricapitalizzare Premafin senza dover lanciare un'OPA. Però poi a questo Groupama aveva aggiunto un altro sostanzialmente quesito. Ha detto: ma se noi poi volessimo intervenire direttamente nella società controllata da Premafin, quella che ci interessa veramente, che è Fondiaria SAI, il gruppo assicurativo della famiglia Ligresti, potremmo farlo. Allora, se Groupama ha sbagliato a formulare quel quesito agganciando queste due fattispecie, allora la questione in qualche misura sarebbe superabile. Se viceversa la Consob è intervenuta duramente sul primo e più fondamentale di questi interrogativi, cioè sul fatto che se cioè Groupama acquisisce il 17% di Premafin, deve essere costretta a lanciare un'OPA che a quel punto diventa a cascata su una serie di società, diventa un'operazione costosissima, perché poi diventa su Premafin, la quale controlla Fondiaria SAI, la quale controlla Milano Finanza, sono sostanzialmente tre società quotate. Quindi infatti va spiegato questo agli ascoltatori per far capire a tutti, cioè la differenza tra entrare per i francesi di Groupama, entrare dentro Premafin, quindi dare i soldi a Ligresti che ne ha bisogno con il 17% e quindi diventare, dopo la famiglia Ligresti che scenderebbe al 34%, il secondo azionista di Premafin, significa entrare nel mercato, aumentare la presenza nel mercato italiano delle assicurazioni, controllare di fatto, avere un grosso peso su Fondiaria SAI. Altra cosa è se l'autorità di vigilanza, ossia la Consob, dice: no, c'è una legge su questo, se tu compri il 17% della Premafin dalla famiglia Ligresti devi offrire, attraverso un aumento di capitale, un po' tecnica come cosa, ma devi offrire lo stesso prezzo a cui l'hai comprata dai Ligresti a tutti gli azionisti di devi lanciare un'OPA e quindi devi lanciare un'offerta pubblica d'acquisto. Vuol dire che teoricamente può essere che tu sia obbligata a comprarti tutta la Premafin e tutta la Fondiaria SAI. Stiamo parlando di miliardi. Diciamo che perché in quel caso l'ipotesi accusatoria, chiamiamola così, è quella che attraverso queste intese, che tra l'altro sono state realizzate nell'ambito di un patto di sindacato che è stato sottoscritto dalla famiglia di Cresti e Groupama, diciamo, il controllo su Fondiaria SAI, che attualmente è esercitato, sì, dalla famiglia Ligresti, viene condiviso anche con Groupama. Ecco, per questo ci aiuta a capire, perché giustamente gli ascoltatori fanno notare che la legge, ed è vero, sull'OPA prevede che tu sia obbligato a offrire la stessa prezzo a tutti, quindi teoricamente anche a comprarti tutto un gruppo, quando compri più del 30%. Già, ma però quando l'acquisto è congiunto, in questo caso il cambio di controllo sarebbe esercitato nel senso che da un controllo solitario, diciamo così, della famiglia di Cresti si passerebbe a un controllo congiunto della famiglia di Cresti e di Groupama. Anche questo controllo congiunto viene assoggettato alla legge sull'OPA, poiché l'insieme delle azioni di Groupama e della famiglia di Cresti superano abbondantemente il 30% chiesto dalla legge, ecco lì che ancora una volta scatterebbe l'OPA. Cioè la legge dice, se tu però sei d'accordo con l'altro e vi fate un'operazione assieme, qualcuno ricorda il concerto dei furbetti del quartierino? Sbaglio a citarlo forse, Riccardo, ma insomma lì c'era l'ipotesi di concerto. No, diciamo che lì ci sono, è molto simile, cioè la legge dice, se io e te ci mettiamo a scalare la prima fin e tu ti compri il 15, io mi compro il 16%, certo, di fatto, certo, siccome siamo amici e controlliamo la società, abbiamo il 31%, dobbiamo lanciare l'OPA. Esatto, questo è il ragionamento che ha fatto la Consob. Due notizie in breve, però appena battute dalle agenzie. Da un lato, nel convegno dell'Aspen Institute a Istanbul si discute chiaramente molto di Medio Oriente, di Nord Africa. Poco fa il ministro Tremonti ha detto, attenzione, uno dei rischi più grandi posti dalla crisi in Nord Africa e in Medio Oriente è la possibilità che vengano smantellati i fondi sovrani dei paesi coinvolti e che investono nel mondo occidentale. La Libia, attraverso i fondi sovrani, cioè i fondi dello Stato libico, ha il 2% per esempio di Finmeccanica, ha il 7,5% con due fondi diversi di Unicredito e quant'altro. E ha detto Tremonti, noi vogliamo bloccare i fondi di quei paesi, pensate se fossero invece loro a disinvestire, a ritirare i loro fondi disinvestendo. E se per caso una rivoluzione dicesse quei fondi sono nostri, li vogliamo indietro, si è chiesto Tremonti, immaginate gli effetti destabilizzanti. Invece sui mercati finanziari, visto che li abbiamo appena commentati, è interessante notare quanto è emerso dal sondaggio oltre 300 intervistati tra gli operatori finanziari presenti lo scorso fine settimana a Verona al Forex, il sondaggio di Radio Corriere Sole 24 Ore, perché la maggior parte delle opinioni ritiene che nei prossimi mesi la borsa continuerà a puntare al rialzo anche dopo lo scatto visto nella prima parte del 2011, lo scatto di primavera, e che il mercato obbligazionario sarà dominato dalle emissioni governative e che la stretta creditizia da parte della Banca Centrale Europea, cioè l'aumento dei tassi di interesse, arriverà molto prima rispetto a quanto previsto finora. In effetti ieri Trichet l'ha fatto capire molto chiaramente. Allora, prima di arrivare al prezzo della benzina, occupiamoci di un settore produttivo, lo facciamo quasi ogni giorno. Ieri era la volta dell'occhialeria, oggi tocca al settore della calzatura. E se noi siamo il primo produttore di occhiali al mondo, siamo anche il primo produttore di scarpe in Europa, sesti al mondo, ogni tanto vale la pena ricordarli questi dati, sono circa quasi 6.000 aziende coinvolte nel settore calzaturiero, quasi 80.000 gli addetti. E dal 6 al 9 marzo a Milano ci sarà il MICAM, quindi la manifestazione annuale dedicata al settore, 1.600 gli espositori, di cui 600 stranieri, presenteranno le collezioni anche di calzature per l'autunno e inverno, 71.000 metri quadrati, 8 padiglioni nel polo espositivo di Rho, però decine di migliaia di visitatori attesi. Come è andato il settore intanto nel 2010? Più 4% della produzione industriale, che porta il settore a quota 6 miliardi e 700 milioni di euro. I dati li ha diffusi oggi proprio in occasione della presentazione del MICAM. E ancora gli acquisti delle famiglie italiane continuano a essere negativi, questo vale per le calzature, per l'occhialeria, per tutti i settori produttivi. La domanda interna è bassa o addirittura in flessione anche nel 2010, meno 1% per quello che riguarda le calzature, ma anche in questo caso a trainare sono le esportazioni. Più 15% l'anno scorso l'export italiano di calzature, per un totale di 223 milioni di paia di scarpe vendute. Poi c'è la concorrenza cinese, primo mercato di provenienza, è aumentato del 16% l'import di calzature cinesi e praticamente dalla Cina arrivano quasi la metà delle scarpe che importiamo. hanno chiuso comunque in Italia nel 2010 224 calzaturifici, sono stati persi quasi 3.000 posti di lavoro. Nonostante questi dati, un cauto ottimismo ce l'ha il presidente dell'Associazione Nazionale dei Calzaturieri Italiani, Vito Artioli. Sentiamolo al microfono della collega di Radio Cor, Eleonora Micheli. Sono enormi i segnali che ormai si sono consolidati durante il 2010, che era partito un po' negativo sulla base del 2009 del quale prendeva la successione, e il 2009 è stato l'annus horribilis per le calzature, così come per tutta l'economia manifatturiera del nostro paese e dell'Europa. Il 2011 è cominciato un po' in sordina, poi in crescendo, fino a quasi ottenere un recovering, un recupero dei dati di prima crisi. Siamo quasi al recupero totale dei dati di prima crisi, di prima della crisi. Quindi il 2011 è previsto in crescita? Il 2011 è previsto in crescita, anche se ormai, avendo raggiunto questi livelli, sarà difficile superarli di molto, perché lei sa benissimo, si cresce molto quando si è molto indietro, quando si è molto piccoli in pochi anni si diventa molto grandi, a un certo punto si raggiunge dai 16 ai 17 ai 18 anni non si cresce più tanto. A trascinare il settore è soprattutto l'export, mentre i consumi italiani continuano a soffrire. Purtroppo l'ho detto e lo confermo, il consumatore italiano è molto cauto. D'altro canto, il risparmio della famiglia italiana in questo momento è molto utile, e lo si vede nella macroeconomia, nei dati che Tremonti presenta al Paese. Sono dati molto confortanti, proprio perché comunque il consumatore italiano è molto attento, spende con molta oculatezza. Invece per l'export raggiungiamo dei livelli molto elevati nei paesi tradizionali come la Francia, la Germania, e poi naturalmente gli Stati Uniti, la Russia, l'Inghilterra, eccetera. Noi continuiamo a salire, ad aumentare. I paesi emergenti, poco alla volta, ci introduciamo, sappiamo che sono dei nostri competitor, non tanto per la qualità quanto per il prezzo, perché loro hanno dei prezzi talmente bassi, con costi di manodopera quasi a zero, con costi paese e con poca osservanza di tutte le regole che hanno un riflesso sui costi della produzione dei manufatti italiani ed europei. Così appunto il presidente dell'ANCI, Vito Artioli. E un'altra notizia appena battuta dall'agenzia riguarda invece il titolo del gruppo Parmalat. Molto si era elucubrato in questi giorni sul possibile offerta che avrebbe lanciato il fondo Charm, quello di Montezemolo, nella partita su Parmalat. Lì sappiamo che i fondi stranieri stanno premendo, vogliono cambiare Enrico Bondi, vogliono mettere un altro manager, c'è il rischio che Parmalat poi venga gestita quasi esclusivamente dai fondi stranieri. Sembrava che ci fosse un'accordata italiana sul modello un po' di Alitalia, non è così, perché poco fa si è saputo che Charm non parteciperà alla partita su Parmalat. Lo ha deciso oggi il fondo che fa capo alla famiglia Montezemolo, visti i tempi estremamente ristretti. Mentre vedo anche alcune notizie che sì, riguardano altri titoli, adesso poi le racconteremo chiaramente, però vi rifaccio, vedo che molti ce lo chiedono, il calcolo su perché a noi non tornino i conti sul prezzo che ha raggiunto la benzina alla pompa. 349-238-6666 per i vostri sms. La benzina adesso costa come nel 2008, quando il petrolio toccò il record di $149 al barile, insomma viaggiava stabilmente a $138-140 al barile. Il rapporto euro-dollaro era allora, estate 2008, a 1,58, il che vuol dire che allora, con quel rapporto di cambio, il petrolio costava €94, cioè $149, €94. E la benzina era arrivata a 1,6-1,59. Adesso il petrolio costa circa $104-105 al barile, l'euro il rapporto di cambio euro-dollaro è a 1,39-1,40 oggi, il che vuol dire che il petrolio al barile in euro costa 74 euro. Ci sono 20 euro che ballano di differenza tra quanto costava il petrolio in euro allora, 94, e quanto costa adesso, 74, però il prezzo della benzina è identico. Ho capito che costa, incide per il 30% il petrolio sulla benzina, il resto sono tasse, anzi 65% tasse, 17% compagnie petrolifere, 10% trasporto, 3% raffinerie, 3% i gestori dei distributori di pompe di benzina. Non ho invitato questa volta il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, perché dopo 15 interventi in questi 10 anni, sempre a dire che abbiamo torto, che il prezzo è sensibile sia verso l'alto che verso il basso, non ce la faccio più. Invitiamo invece chi rappresenta le pompe di benzina, quindi la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, Luca Squeri, buonasera. Buonasera a voi. Allora, tanto io so che voi non ci guadagnate da questo, nel senso non è... ma non è strano anche per lei, perché oggi andiamo a commentare, nel weekend in cui tutti si spostano, una raffica di rialzi, 1,60 euro al litro nel sud, Eni più 0,5 centesimi sulla benzina, 1 centesimo sul diesel, IP 1 centesimo su entrambi i prodotti, Kuwait 1 centesimo sulla verde, 1 centesimo e mezzo sul diesel, Shell 1 centesimo e mezzo sulla verde, 2 centesimi sul diesel, Total Erg 1 centesimo sulla verde, 2 centesimi sul diesel, con... già le prime stime dei consumatori. Allora, anche a lei non risulta strano? Intanto la ringrazio per la premessa che ha fatto, dove ha detto che i gestori non ci guadagnano, anzi io aggiungo che i gestori più la benzina più ci perdono, perché il margine è fisso al litro, non è in percentuale, e invece aumentano gli oneri finanziari che con per esempio l'1% sulle carte di credito, potete figurarvi quanto sia dannoso per il benzinaio quando aumenta il prezzo della benzina. Fatta questa doverosa specifica, io sono andato a vedere, ho fatto un calcolo che è molto preciso, vi assicuro, prendendo una valutazione del barile adesso 2011, cioè 114 dollari, e un giorno in cui nel 2008 come data di riferimento il barile costava anch'esso 114 dollari, e applicando quella che è la differenza appunto del cambio, l'ha detto lei, all'epoca era oltre 1,5, adesso invece siamo a 1,3, cioè il 10% in meno su per giù, noi vediamo che la differenza del plus, che è il valore della materia prima, della materia finita, cioè benzina e gasolio, la differenza era di 7 centesimi, e alla pompa il costo industriale era di 7 centesimi, per cui io lo so che a me sarebbe più comodo dire che c'è una differenza di approccio, di determinazione dei prezzi. In realtà, applicando gli elementi che vanno poi a fissare la pompa, devo dire che come nel 2008, ecco che abbiamo un prezzo lineare nel 2011. Per quanto riguarda poi... No, Squeri, mi scusi, perché io ho fatto un calcolo sicuramente più grezzo del suo, cioè ho preso quanto valeva, io ho preso quando la benzina costava 1,59, nel 2008 costava quella cifra lì, solo che il petrolio in euro ci costava 94 euro al barile, adesso ci costa 72 o 74 euro al barile. Lei ha fatto presente un calcolo con 104 dollari, in realtà è 114 dollari. Sì, ma l'abbiamo fatto 2-3 giorni fa quando era 104. Comunque, lei mi vuole dire in sostanza che la benzina si è mossa realmente su quello che è il costo del petrolio in euro, quindi anche al netto del rapporto euro-dollaro? Applicando la differenza di cambio, prezzo attuale è in linea con quello che era la quotazione del petrolio nel 2008. Questi qui, ripeto, sono calcoli aritmetici, chiaramente per radio non lo si può fare, però le garantisco, le mando la scheda che ho davanti agli occhi. Me la mandi, perché anche i nostri erano calcoli aritmetici, non è che li abbiamo fatti così, non ci siamo giocati i numeri all'otto dopo. Dà l'email, gliela mando in tempo reale. È pubblica, sebastiano.barisoni@sole24ore.com o.it o radio24.it, la trova anche sul sito. Comunque, Squeri, mi dica un'altra cosa. È vero che voi non ci guadagnate da questi rialzi così, è vero però che il sistema di distribuzione italiano è un sistema particolarmente oneroso. Noi abbiamo in questo momento 20% scarsi nemmeno di self service su 24.000 punti vendita, in Francia hanno l'80% di self service con 14.000 punti vendita, in Germania sono l'80% di self service, in Spagna sono anche qui 21% di self service. Allora, in Unione Europea un impianto mediamente vende 3 milioni di litri, una pompa, in un anno, in Italia la metà, 1,5 milioni. Non è che paghiamo anche le vostre inefficienze di sistema? Sì, le inefficienze di sistema assolutamente sì. Intanto una precisazione sul sud, questo vituperato sud. Ecco, sì, ma perché al sud costa sempre di più la benzina? Ma che è? Guardi, ma la risposta è molto semplice, perché ci sono 5 regioni su 6, Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia, dove le regioni hanno applicato l'addizionale sulle accise, sulle tasse, per cui abbiamo dai 2 ai 3 centesimi in più di tasse, per cui partono in svantaggio perché c'è un appesantimento nella componente tasse. Poi è vero, c'è molto da fare dal punto di vista dell'efficientazione, tant'è che noi abbiamo concordato 10 anni fa un piano di diminuzione di impianti, proprio per diminuire gli impianti. All'epoca si parlava di 7-8 mila impianti in meno, per far sì di aumentare l'erogato medio e dunque far sì che ci fosse più efficienza. Diciamo che con poi l'evoluzione della liberalizzazione, che poi è diventata deregolamentazione, da un'iniziale diminuzione di impianti, in realtà avendo più facilità poi nell'aprirli, adesso gli impianti sono aumentati invece che diminuiti. E la cosa non mi fa impazzire, perché è una rete troppo costosa la nostra. Però un'ultima domanda, Squeri. Allora, molti dei suoi associati, dei distributori di benzina, lamentano il fatto che le compagnie, le grandi centri commerciali, soprattutto quelli francesi, come avviene in Francia, metà delle pompe di benzina in Francia sono dentro i centri commerciali, offrano, se tu vai a fare la spesa lì, spendi più di 100 euro, ti do uno sconto sulla benzina. A me sembra una cosa assolutamente positiva. Domanda, perché non convince i suoi associati invece a diversificare l'attività, così invece che vivere solo sulla benzina che vendono, vivono anche su prodotti alimentari, su altri prodotti del commercio, cioè a fare come negli altri paesi in cui dentro la pompa di benzina non c'è solo il benzinaio, ma c'è anche una rete di vendita, e mi riferisco a quelle non autostradali. Ma guardi, io direi che mentre noi vorremmo portare, come si suol dire, la bottega alla pompa, cioè l'attività non oil, cioè la somministrazione, i tabacchi, i monopoli, in realtà finora La bottega alla pompa può anche dire in un altro modo, Squeri. Ma è un modo di dire, però no, diciamo in questo periodo implementare l'attività non oil, come diceva lei, in realtà questo non è stato fatto, perché rimangono comunque vincoli sia autorizzativi, burocratici, per cui ora come ora, se un impianto volesse aprire un bar, per esempio, sul proprio impianto, non ci riesce, perché ci sono troppi vincoli burocratici, ed è una strada invece che bisogna percorrere, perché così potremmo alleggerire quello che è il costo di gestione. Lei ha 40 secondi per dirmi però dov'è la resistenza? La resistenza è nelle leggi che non consentono questo tipo di liberalizzazione a favore degli impianti di benzina. E quindi c'è sempre un altro motivo. Un paese, veramente, ogni tanto entrare nei vincoli, nell'acido acciuolo di questo paese è come entrare in un labirinto. Comunque io la ringrazio per la disponibilità, grazie anche a chi rappresenta i 24.000 distributori di benzina in Italia, Luca Squeri. Grazie a voi. Lo so che quando molti di voi dicono un altro tentativo fallito Barisoni, e lo so, è un altro tentativo fallito, non se ne esce da sto tema, però il nostro obbligo è anche tentare, anche se poi delle volte sono dei buchi nell'acqua, o meglio dei buchi nella benzina. Con questo si conclude la puntata e la settimana di Focus Economia. Auguro a tutti voi un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi, parleremo anche di quote rosa, la legge infatti va avanti, legge molto contestata, quella che obbliga il 30% di donne nei CDA, ne parleremo la settimana prossima. Intanto, buon fine settimana. Radio 24, la passione si sente.